Before the next dialogue and more questions from Andrea, some new language. Ascolti le parole nuove e le ripeta in italiano dopo la seconda volta. Quanto rimane? How long are you staying? Quanto rimane? Parte. He or she leaves. Parte. Prossimo. Next. Prossimo. Presto. Early. Presto. Che peccato. What a pity. Che peccato. And here are those five words and phrases again. Ed ecco le cinque parole ed espressioni nuove ancora una volta. Quanto rimane? Parte. Prossimo. Presto. Che peccato. E quanto rimane a Firenze? How long am I staying? Giusto. Sara parte martedì prossimo. Martedì? Troppo presto. Che peccato.